Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:08 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: il doppio fronte italiano ed europeo. Perché lo dico? Perché da un lato Matteo Renzi oggi, come vi hanno raccontato già i nostri GR a Siracusa, ha visitato la scuola elementare media Raiti in questo suo viaggio la settimana scorsa a Treviso, adesso a Siracusa vuole fare un comune a settimana, ha detto che occorrono misure shock o sprecheremo la ripresa, serve un sussulto per sbloccare il paese. E poi queste riforme vanno fatte nel prima del semestre europeo. Però a questo punto ci si interroga sui tempi. Devo dire che Renzi ha annunciato che per mercoledì prossimo arriverà il piano casa, ma anche Jobs Act e le misure per la scuola. Non ce la facciamo per venerdì. Devo dire che tra venerdì e mercoledì cambia poco. L'importante è che arrivi da un lato e che non sia pasticciato dall'altro. Ne parleremo in apertura con il nostro ospite in questi casi, quando parliamo dell'agenda politica, e mi riferisco all'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili. Parleremo anche del fronte europeo. Perché? Perché oggi la Commissione europea, che ha diffuso un insieme di raccomandazioni, devo dire anche alla Germania, il surplus commerciale tedesco, la differenza tra quanto la Germania esporta e quanto invece non importi, è troppo alto a vantaggio delle esportazioni, è un segno di alta competitività ma di scarsa domanda interna, dice la Commissione europea. Quindi i tedeschi esportano e producono tanto e bene, consumano poco e non male, ma solo poco, diciamo. E per questo la Commissione europea chiede nella sua analisi che la Germania rafforzi i consumi interni. Misure che avranno effetti sulla domanda interna sono già contenute, ha spiegato la Commissione, nell'accordo di coalizione del nuovo governo a guida Angela Merkel. E poi si occupa dell'Italia e l'Unione Europea, perché dice: attenzione, siete sotto monitoraggio, e quando mai? Perché avete, quando mai lo aggiungo io, avete squilibri eccessivi. Bruxelles farà un rapporto all'Eurogruppo e a giugno deciderà ulteriori passi. Sugli squilibri eccessivi in realtà un po' ci si interroga, perché la frase è leggermente enigmatica, tiene dentro tutto e il contrario di tutto, cioè niente. Ma Bruxelles invita il nuovo governo italiano ad affrontare gli squilibri che richiedono urgenti politiche e fare le riforme per rafforzare crescita e occupazione. Fin qua, diciamo, tutto già noto e anche un po' retorico. Cercheremo di capire qualcosa di più, se ci riusciamo, nella seconda ora del programma. Affronteremo anche e di nuovo la vicenda Sorgenia, che è una vicenda il cui lato così, che riguarda il rapporto impresa-banca, abbiamo già affrontato, e sono d'accordissimo con tutti quelli che ci hanno scritto, imprenditori, artigiani, denunciando trattamenti molto diversi rispetto a quelli avuti da Sorgenia, e quindi dall'azionista di controllo, che è la famiglia De Benedetti, con la CIR che ne ha il 53%. Devo dire che ci hanno scritto anche alcuni direttori di filiale bancaria dicendo: a noi le direttive che arrivano, le indicazioni che arrivano sono di tutt'altro genere rispetto a quelle applicate con Sorgenia. Tra l'altro c'è poi una vicenda nella vicenda, c'è il ruolo del Monte dei Paschi di Siena, il quale, come se non bastasse, piove sul bagnato, è già sicuro di portare a casa delle perdite, perché il gruppo senese è infatti anche azionista, non ha solo prestato soldi a Sorgenia, è anche azionista con una quota non enorme, l'1,7%. Fu acquistata nel 2007 per decisione dello stesso Giuseppe Mussari, allora numero uno indiscusso del Monte dei Paschi e anche presidente dell'ABI, delle banche italiane, pagata allora 33 milioni di euro, attualmente è iscritta a bilancio per 7,7 milioni, ma può essere che la cifra sia ancora troppo ottimistica anche con la svalutazione effettuata. Ne parleremo più avanti. La borsa come va? Recupera anche oggi. Devo dire che nella giornata in cui l'Europa dice che l'Italia è sotto stretto monitoraggio per gli squilibri, noi festeggiamo un altro buon dato sullo spread, ossia siamo scesi a nuovi minimi questa volta dal novembre del 2010, sotto i 180 punti. Il rendimento dei BTP a 10 anni è del 3,38%. Siamo leggermente sopra lo spread spagnolo rispetto sempre al Bund tedesco, che è a 176 punti. Però noi siamo arrivati anche a 174, quindi in realtà durante la giornata abbiamo risuperato la Spagna in positivo, non in negativo. Ma tant'è, quindi sul fronte delle tensioni sul debito italiano la situazione è assolutamente non solo tranquilla, ma è tornata ad essere migliore di quanto non fosse nel 2011 e appunto fino a novembre del 2010. Lo ripetiamo spesso, questo è un vantaggio che il nuovo governo deve sfruttare, perché non è detto che lo spread e gli interessi sul debito italiano si manterranno a lungo così bassi. C'è una situazione di calma complessiva che abbiamo spiegato molte volte, dovuta soprattutto alle decisioni che arrivano d'oltreoceano dalla Federal Reserve, e quindi l'intenzione della Yellen di non operare una manovra restrittiva brusca finché la disoccupazione americana non sarà scesa sotto il 6,5%. La banca centrale americana continuerà a essere assolutamente accomodante, quindi tassi bassi e stampaggio di dollari ogni mese. La cifra è scesa a circa 75-73 miliardi di dollari, ma sono sempre 73 miliardi di dollari che vengono immessi sul mercato ogni mese dalla Federal Reserve. E questo, oltre alle tensioni sui mercati emergenti, porta flussi di capitale nelle valute forti, e quindi l'euro è tra queste. Euro che su dollaro è a quota 1,3739, rapidamente i titoli, la borsa guadagna l'1,5%, è la migliore in assoluto oggi Piazza Affari in Europa, perché Parigi è invariata, Francoforte perde lo 0,30, Londra 0,50% di calo. Tra i titoli di nuovo molto forte la Popolare Milano più 5%, ma c'è un caso vero e proprio, già accennavo al Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi oggi guadagna il 19-20%, ci sono indiscrezioni di un via libera europeo sui Monti Bond, che però verrebbe accompagnato a ulteriori tagli, diciamo esuberi, sacrifici, riduzione dei costi, non si capisce bene, ma sono tutte indiscrezioni. Mentre Mediobanca guadagna il 4,20%, Fiat il 4%, Azimut più 3,40%, Enel più 3% come Unicredit, Intesa San Paolo più 2,90%, Ubibanca più 2,70% come Unipolsai e la Popolare Emilia Romagna. Chi è negativo oggi? Finmeccanica perde l'1,70%, Iux l'1,30% come Luxottica, Prismian meno 0,80%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda, citavamo la Federal Reserve, l'America è un paese che a qualche lezione ce la dà, nel senso che lo stipendio del numero uno della Federal Reserve, cioè del banchiere più importante al mondo, è uno stipendio che non è altissimo, o meglio, non è altissimo se lo paragoniamo a certi dirigenti dei ministeri italiani, capi dipartimento e quant'altro. Prende sostanzialmente poco più di 200.000 dollari l'anno il presidente della prima banca centrale al mondo, e mi sembra una cosa indicativa, ma è anche indicativo cosa succede quando tu smetti di fare il presidente della Federal Reserve. Ben Bernanke ha guadagnato, con il suo primo discorso pubblico, per parlare 40 minuti in pubblico, ha guadagnato più di quanto non abbia guadagnato ogni anno come presidente della Federal Reserve. 250.000 dollari vale ascoltare Ben Bernanke per 40 minuti, beato lui. Pensate che voi ascoltate me gratis, per cui insomma gratis, come no, gratis, inutile che tecnico mi guardi, gratis, mica costa la radio l'ascolto. Ma al di là delle battute, 250.000 dollari per 40 minuti, è intervenuto ad Abu Dhabi guadagnando appunto più di quanto abbia mai guadagnato in un anno intero la Federal Reserve. Per dire che cosa poi? Per dire che ha sottovalutato l'impatto che i mutui subprime avrebbero avuto sulla crisi, che non è una cosa da poco, perché insomma è da 5 anni che ci stiamo smazzando sta crisi, che per carità poi a cui poi l'Europa, l'area euro, ha contribuito con meriti propri, diciamo. Però insomma, e Ben Bernanke ha detto: sì, ho sottovalutato il problema dei mutui subprime, pensavo che avrebbero generato solo un moderato rallentamento dell'economia, invece ci siamo beccati la crisi più grande dal 29. E uno va lì, spende 250 mila dollari complessivamente per sentirsi dire questo, e poi è pure contento. Dell'Ucraina abbiamo detto, mentre arrivano 11 miliardi a Kiev dall'Unione Europea, Mosca ha detto di no al bagno di sangue. C'è stato anche un incontro bilaterale tra la Mogherini, il nostro ministro degli esteri, e quello ucraino Lavrov. La Russia ha venduto 11 miliardi e mezzo quasi di dollari per sostenere il rublo, sottoposto a fortissime pressioni da quando è scoppiata la crisi ucraina. E ancora devo dire però che da questo punto di vista oggi la situazione è decisamente più calma, come già ieri. Interessante invece la notizia che arriva dalla Cina, perché la Cina si è impegnata nel rapporto, diciamo, annuale, il rapporto presentato dal governo cinese all'Assemblea Nazionale del Popolo, che è il Parlamento di Pechino, si è impegnata a crescere del 7,5% all'anno. E vabbè, sappiamo che sopra il 7% in Cina c'è la differenza tra espansione e stagnazione economica. Ma soprattutto ha deciso di spendere come spese per la difesa militare il 12% in più all'anno. E il Giappone, che è da sempre impegnato nella disputa territoriale con Pechino nel Mar della Cina orientale, si è definito ufficialmente preoccupato. E te credo, più 12% di spese militari all'anno. Ancora due notizie prima di arrivare alle dichiarazioni di Renzi e all'agenda del governo. Mentre, quindi ci spostiamo all'Italia, mentre secondo quanto sostiene la Caritas italiana e la ONG Save the Children, a due anni dal provvedimento che istituiva la nuova social card in Italia per i meno abbienti, ancora, e valeva appunto le famiglie povere con bambini e gli anziani, nessuna famiglia ha ancora mai ricevuto questo sostegno. E dire che erano solo 50 milioni di euro, questo è il problema che poi fa scollare, diciamo, il paese dalla classe politica, da chi governa. Tu hai l'annuncio, arriva la social card, poi hai il decreto sulla social card, poi mancano le parti attuative, come il Sole 24 Ore ha messo in evidenza decine di volte, tutti i decreti attuativi ancora fermi su leggi decise anni fa, e perfino 50 briciole di milioni di euro per le famiglie povere con bambini devono ancora arrivare, altro che social card. Fa discutere infine la multa che l'antitrust ha sanzionato a due colossi farmaceutici mondiali, e mi riferisco a Roche e Novartis, con l'accusa di avere generato un cartello che ha condizionato le vendite dei principali prodotti destinati alla cura della vista. Si tratta di Avastin, spero di pronunciarlo bene, e Lucentis. 180 milioni di euro di multa, perché i due gruppi si sono accordati illecitamente per ostacolare la diffusione dell'uso di un farmaco molto economico, l'Avastin, nella cura della più diffusa patologia della vista tra gli anziani e di altre gravi malattie oculistiche, a vantaggio di un prodotto molto più costoso, Lucentis, differenziando artificiosamente i due prodotti. Questo ha avuto un danno non solo per gli anziani, ma anche per il sistema sanitario nazionale, che ha dovuto sborsare 45 milioni di euro in più nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri, stima l'antitrust, fino a 600 milioni di euro l'anno. La Novartis ha respinto in maniera decisa le accuse di pratiche anticoncorrenziali messe in atto insieme alla Roche in Italia, ha annunciato il ricorso al TAR. E poi una notizia non bella, ma riguarda NTV e quindi il treno Italo, la società che gestisce il treno Italo, Partiranno 1000 contratti di solidarietà dopo l'accordo raggiunto con i sindacati, dalla durata di 12 mesi, vuol dire lavorare in media un giorno e mezzo in meno al mese. Questo sottolinea comunque il comunicato anche dei sindacati. La solidarietà ha permesso di evitare 80 licenziamenti che avrebbero interessato invece tutti i settori produttivi. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con i nostri temi di approfondimento. E allora, al di là del Premier che dice non facciamo più tavoli, voglio solo mail, e anche questo, diciamo, e poi cita Walt Disney, in realtà oggi Renzi ha iniziato a dare quelle indicazioni che chiediamo da giorni, cioè dacci le date, quella che chi ha studiato chiama roadmap. Spiegaci quando i vari provvedimenti verranno messi in fila. Lo ha spiegato molto bene in un editoriale su Sole 24 Ore, poi ai nostri microfoni Roberto Perotti, cioè, e poi anche ieri il presidente dell'ANIA. Inizia a dire quando tutte le cose che hai annunciato si svilupperanno e con che tempi. Non che tutte vadano fatte subito, ma stabiliamo delle priorità e la tempistica di queste priorità. Intanto una nota tecnica, vedo molti messaggi che la frequenza della radio è disturbata a Torino, nella provincia di Latina, lo sappiamo, ci stiamo lavorando, abbiamo già allertato la parte tecnica della radio, ci sta lavorando, mi dispiace, chiedo scusa a nome della radio, ma intanto Matteo Renzi, il Mediterraneo è il cuore dell'Europa, dobbiamo smettere di considerarlo un confine e una frontiera. Noi abbiamo scelto di andare ieri mezzo pomeriggio in Tunisia, a Tunisi, abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente dell'Assemblea Costituente, 5 giovani blogger, 5 giovani attivisti della rivoluzione della primavera araba, per dire che per noi il Mediterraneo è culturalmente, politicamente, economicamente, socialmente il cuore dell'Europa. Dobbiamo smettere di considerare il Mediterraneo il nostro confine, la nostra frontiera. Il Mediterraneo è il cuore dell'Europa. Vabbè, e fin qua siamo all'Accademia. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. No, nel senso che il Mediterraneo è il cuore dell'Europa, lo sappiamo anche noi, mi ricordo un po' la Madia quando disse che la terra respira, ma non voglio infierire. Invece, e non ridere per favore, invece vorrei andare sulla cosiddetta roadmap, l'agenda di Matteo Renzi. Ha detto che mercoledì presenterà, adesso lo ascoltiamo, il piano casa, il Jobs Act e le misure per la scuola. Per l'edilizia popolare mercoledì, credo che non ce la facciamo venerdì, mercoledì presentiamo il piano casa che stiamo rivedendo in modo tale da poter dare un segnale. Noi mercoledì immaginiamo di intervenire sul Jobs Act, sugli interventi sulla scuola, sugli interventi per il piano casa, e quindi mettere tutto insieme e non incatenare i sindaci, ma scatenare. Noi dobbiamo scatenare esattamente l'opposto, sbloccare, a partire naturalmente dai debiti della PA. Allora, Guido, sì. Diciamo, la sensazione che noi riceviamo è di, così, dal nostro modestissimo osservatorio, è di un'opinione pubblica un po' disorientata per il casino, passami il termine, che si sta generando sulla riforma della legge elettorale, perché io sfido, tranne pochi addetti ai lavori, qualcuno a raccontarmi con esattezza a che punto siamo e soprattutto perché ci sono superamenti a destra della Camera prima e del Senato dopo. Ma la sensazione è che Renzi, capendo che quello è un percorso un po' più lungo, voglia portare, mettere, diciamo, sul fuoco subito altri provvedimenti. Guido. Sì, il quadro è questo. Ovviamente deve tener conto anche di ciò che arriva, Renzi dovrà tener conto anche di quello che è arrivato oggi, delle indicazioni che sono arrivate da Bruxelles da parte della Commissione europea, certo. Perché lui parla mercoledì prossimo, diciamo, di un varo di misure che riguardano il piano casa e il Jobs Act. Ora, a parte che, diciamo, a me viene un po' l'orticaria a pensare al piano casa, ecco, perché non c'è, credo, Presidente del Consiglio negli ultimi 50 anni che non abbia in qualche modo pensato di ricorrere o far ricorso a un piano casa, e sappiamo che più o meno i risultati sono sempre stati deludenti. Mi auguro che ovviamente in questo caso invece funzioni, però insomma aspettiamo appunto mercoledì. Per quanto riguarda le risorse che servono per fare tutte queste operazioni, Renzi ha parlato, come avete indicato nel servizio, di scatenare i sindaci, quindi dare a loro la possibilità di investire, di agguantare questa crescita che non riusciamo a prendere. Però dovrà tener conto di quelle che sono le indicazioni che sono arrivate dalla Commissione europea, che piacciono o non piacciono, diciamo, dicono che l'Italia resta una sorveglianza speciale dal punto di vista anche del controllo dei conti pubblici, e ci hanno un po' messo, anzi sicuramente, dietro la lavagna, e ci dicono che abbiamo degli squilibri eccessivi dal lato del debito e della crescita e della produttività, e insomma ripropongono una ricetta che noi conosciamo alla perfezione, ripeto, piaccia o non piaccia. Quindi Renzi avrà, secondo me, il suo bel da fare anche in Europa per cercare di convincerli che le riforme stanno, diciamo, il percorso delle riforme è in dirittura d'arrivo, se non altro dal punto di vista dal varo dei primi provvedimenti, e che questo potrà consentire un allentamento dei vincoli in prospettiva con l'Europa. E quindi è un percorso molto complicato e molto difficile. Sì, complicato e difficile, non solo per le coperture, ma anche perché, come tu ricordavi, il piano casa era Fanfani, quello del piano casa. Adesso io non ero ancora nato, giustamente, il primo. Ecco, l'unico piano casa che, diciamo, che poi possa essere degno di questo nome, forse era un'altra Italia, ci mancherebbe. Però a me personalmente convinceva molto di più invece l'iniziativa che coinvolge direttamente i comuni, e quindi che va a sbloccare il patto di stabilità interno per i comuni virtuosi. Sulle scuole, perché l'edilizia scolastica è un'edilizia che va a ridistribuire sul territorio le piccole imprese dell'edilizia, cioè c'è un effetto immediato rispetto alle grandi opere. Non ho nulla contro le grandi opere, tranne alcune, insomma, ma in generale, se vogliamo dare uno shock, una scossa, come dicono tutti, al paese, diciamo, lo shock l'ha già ricevuto il paese, se vogliamo rianimarlo, occorre fare interventi che abbiano una ricaduta immediata. Però Renzi è intervenuto anche su un tema che può sembrare secondario, ma a mio avviso non lo è, e cioè il tema dei rapporti con le cosiddette parti sociali. Cosa ha detto? Ha detto, dopo aver chiesto, avere sfidato gli imprenditori a intervenire per Pompei, basta, occorre che il paese la smetta di rifiutare ideologicamente l'intervento dei privati. Mi sembra che pochi siano rimasti su questo tipo di giungla, ma Renzi è andato avanti chiedendo appunto che il commissario alla cultura europea faccia di più per Pompei, e poi ha detto: attenzione, non voglio più tavoli con gli imprenditori. Tavoli sono quelli che si aprono tra imprenditori e sindacati sulle crisi aziendali, ce ne sono 51 aperti in corso, 52 mi correggono giustamente, grazie, 52 aperti in corso. Non voglio più tavoli, perché se entriamo nella logica di aprire i tavoli non si riesce a dare sostegno neanche ai mobilieri. Vabbè, quanto battute ci siamo. E poi ha chiuso: no tavoli please, only email. Anche qua si poteva dire in italiano: niente tavoli per favore, solo email. E questo rivolto agli imprenditori, e ha detto, citando Walt Disney, la differenza tra i sogni e i programmi è una data, infatti aspettiamo la data. Ha risposto a stretto giro il presidente degli industriali Squinzi, in maniera anche ironica, ha detto: posso condividere, non sono tanto favorevole a tutti quei tavoli che spesso e volentieri non risolvono i problemi. Però, ha aggiunto Squinzi, io sono di una generazione precedente a quella delle email, non le amo, preferisco guardare negli occhi. Ora, Guido, il tema è un po' sottile, però non si rischia di finire nella caricatura? Lo dico, non voglio fare consulente di Renzi, però anche Vabbè, va bene citare Walt Disney, però dire mandatemi le email, non facciamo i tavoli. Non è che l'Electrolux la possiamo risolvere con un giro di mail, poi chi ti parla odia le mail, quindi sono anche di parte. Prego. Ma certamente è così, nel senso che se serve a dare una scossa anche dal punto di vista del metodo, del messaggio mediatico che si vuole inviare, io credo che Renzi faccia bene a dire evitiamo diciamo la concertazione così ma come l'abbiamo carità. Conosciuto fino adesso, che poi significa solamente o rinviare i problemi o autobloccarsi sulle possibili soluzioni e poi non si arriva a nessun risultato concreto. E quindi da questo punto di vista fa bene diciamo a spingere. Poi è chiaro, non bisogna cadere nella caricatura, come dicevi te, perché poi insomma non tutto può essere risolto ovviamente via email, ci possono essere trasmessi dei documenti via email, ci possono essere diciamo degli scambi tra dei tecnici eccetera, ma poi arriva il momento di decidere, e dal punto di vista politico, dove c'è una discussione politica, dove per politica non intendo partitica, ma insomma sulla direzione che il paese intraprende in un senso o in un altro, e credo che a una discussione del genere, dove ovviamente ci saranno i sindacati, gli imprenditori e diciamo e tante altre parti sociali, non credo che si possa fare tutto per email, ci vorrà diciamo un confronto diciamo nel merito e, come diceva Squinzi, guardandosi nelle palle degli occhi. Sì, no, stavo sorridendo perché c'è un ascoltatore che dice trattare le crisi aziendali con le mail è come fare sesso con la chat. Adesso non è, non so se, però insomma ci sta, diciamola tutta, ci sta. Perché attenzione, tutto è propedeutico, ma non è diciamo risolutivo, se vogliamo usare l'esempio dell'ascoltatore. Mentre leggo assieme a te due agenzie, di cui poi parleremo. La prima è che anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda Roche Novartis, e quindi la situazione si complica. La seconda, che la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 55 ex consiglieri regionali lombardi, 9 ex assessori e un collaboratore accusati di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze e i rimborsi, più che le spese. Le spese erano pazze, ma i rimborsi erano criminali, del Pirellone. I soldi pubblici ammontano, secondo spesi illecitamente come rimborsi, ammontano a 3 milioni e 400 mila euro. Non sarà tantissimo, non sarà definitivo per il paese, però magari averli distribuiti per qualche operazione sul territorio da parte della regione non sarebbe stato male. E Guido, noi ci risentiamo al più tardi mercoledì, vediamo cosa esce da questo piano casa e soprattutto anche piano scuola. Nel frattempo, secondo te, l'ultima domanda che ho è: riuscirà a tenere in parallelo l'aspetto costituzionale, cioè la seconda maggioranza che ha con la prima, la riforma della legge elettorale e delle Camere, con le riforme molto più urgenti e anche pregnanti per i cittadini? Ma in un flash, è un esercizio acrobatico, ma non ha altra strada. Grazie Guido Gentili, meteo, pubblicità e poi qualche spreco, la borsa che ha chiuso con un più 1,40%, la vicenda Sorgenia, ma anche e soprattutto il Monte dei Paschi di Siena, più 19,24% il dato finale. Abbassare, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drag e più. Eh sì, era mesi, forse quasi un anno che non risentivamo Rino Gaetano, non tra che più, però oggi ci vuole. Perché? Perché partiamo da Milano, ci facciamo la penisola oggi. Allora, i 221 ex consiglieri regionali lombardi, abbiamo appena letto la notizia della Procura di Milano che ha chiuso l'inchiesta, è uscita pochi minuti fa nei confronti di 55 ex consiglieri lombardi, a cui contestano spese non giustificate e rimborsate per 3.400.000 euro. Ma questa è un'altra cosa, i 221 ex consiglieri regionali lombardi che prendono il vitalizio possono dormire sonni tranquilli, perché nessuno toccherà, almeno per ora, i loro assegni a vita. Sono assegni a vita che a mio avviso non hanno ragione di essere in generale, cioè il vitalizio, tu fai consigliere, prendi lo stipendio, rimborso spese, poi quando finisci il mandato torni a fare il lavoro che facevi prima, se ce l'avevi. Però dico, costano 620.000 euro al mese, 7 milioni di euro l'anno alla Regione Lombardia, solo i vitalizi. Allora, c'era un impegno del Consiglio regionale a tagliare questi vitalizi almeno del 10%, capirai, ma il 10%, ma la trattativa fra l'associazione che rappresenta gli ex consiglieri, cioè questi hanno pure l'associazione che li rappresenta, e il gruppo di lavoro regionale è arrivata a un punto morto. Perché? Perché gli ex consiglieri regionali riuniti nell'associazione degli ex consiglieri regionali, ci sono gli ex alpini, i reduci di guerra, quelli che hanno fatto la naia in quell'anno, ci sono anche gli ex consiglieri regionali, non sono disposti a rivedere l'impianto che è alla base dei benefici. Gli veniva chiesto sostanzialmente di collegare i vitalizi ai contributi effettivamente versati. So che sembra strano, ma è quello che capita a tutti gli italiani, cari consiglieri lombardi. No, l'ex consigliere regionale Luciano Valaguzza, che per inciso di Forza Italia, ha detto, e che per inciso incassa mensilmente 6.300 euro di vitalizio per aver fatto il consigliere regionale, non possiamo permetterci, questa è la dichiarazione sua, non possiamo permetterci di toccare un contratto che è stato firmato. E che è? Ialta, non ci sono motivi per cambiare queste regole. Beh, insomma, abbia pazienza, lei magari non li vede, noi forse sì. Semmai siamo disposti a dare un contributo di solidarietà, ma ci abbiamo pure l'applauso oggi sul contributo di solidarietà? No, non ce l'abbiamo. Valaguzza, ma non vogliamo l'elemosina, vogliamo un po' di equità, il contributo di solidarietà. Ci può fare quello che immagina o quello che gli ascoltatori mi scriveranno lei debba farci. Non vogliamo elemosina, vogliamo equità e giustizia. Punto. Se tutto il paese riceverà una pensione con le varie riforme delle pensioni in base ai contributi versati, mi spiega perché lei deve prendere 6.300 euro al mese e dice che sono contratti firmati e non ci sono motivi per cambiare queste regole? Boh, Luciano Valaguzza, quando vuole siamo qui. Passiamo a Roma, perché l'Istituto Bruno Leoni fotografa quello che è la non gestione dell'ATAC. L'ATAC non solo ha bruciato in 10 anni 6 miliardi di euro, ne ha praticamente già bruciato 1 miliardo di euro della ricapitalizzazione di 2 anni fa. Ma insomma, spende 550 milioni di euro per ogni anno per i 12.000 dipendenti. Sono 46.000 euro a dipendente, che vuol dire 4.000 euro in più rispetto a quanto guadagna un dipendente dell'ATAC a Parigi, della municipalizzata a Parigi, che ha un costo della vita leggermente superiore a quello di Roma, ma soprattutto non chiude in perdita e non brucia 6 miliardi in 10 anni. E poi spende 7,3 euro al chilometro per effettuare il servizio, contro una media di un concorrente privato di 4,5 euro, con un'età media degli autobus di 9,82 anni, una vita massima di 12 anni. Praticamente per la metropolitana siamo allo stesso livello. Fuori controllo anche i costi di manutenzione, 1 euro per chilometro è il 70% in più della media europea. Te credo, quando hai mezzi vecchi la manutenzione costa molto. Ma allora ci chiediamo, questi 6 miliardi in 10 anni come li avete spesi, se la flotta è vecchia e quindi si rompe e non è certo colpa della manutenzione? Misteri. Sappiamo tutti che poi comunque con 12.000 dipendenti a Roma hai un bel impatto anche politico come ATAC, no? Nelle elezioni nei collegi romani, nelle elezioni anche comunali. Ultima notizia e poi oggi mi fermo. Il Ministero dell'Agricoltura, il SIAN, che è il sistema informatico con cui il Ministero dell'Agricoltura ogni anno distribuisce i 7 miliardi di euro di contributi europei, anche perché l'agricoltura vive praticamente come contributi solo dei contributi europei, sono 7 miliardi di euro l'anno. Beh, allora, è costato in 3 anni il sistema informatico 780 milioni di euro. Ora, io, se c'è qualche imprenditore dell'informatica, fatevi un calcolo, sono 250, più di 250 milioni di euro l'anno per un sistema informatico. Perché? Perché è un colabrodo malfunzionante, lo dicono numerose relazioni di collaudo, ma nonché gli audit interni del Ministero, le perizie legali. E poi ci sono, che le stesse perizie legali mettono in evidenza che dietro al SIAN si nascondono situazioni poco chiare. Il mese scorso, nel pieno dello scandalo De Girolamo, il Ministero ha concesso alla SIN, la società partecipata che gestisce il sistema informatico e che già intasca 1,1 miliardi di euro, un ulteriore finanziamento di 90 milioni di euro. Il caso strano è che il direttore generale della SIN è Antonio Tozzi, commercialista di Benevento, amico molto vicino, non intimo, amico, molto amico, proprio dell'ex ministro dell'agricoltura Nunzia De Girolamo, di cui è stato anche portavoce e capo della segreteria. Non, il sospetto non ce l'abbiamo solo noi, perché sta indagando la Guardia di Finanza e sta passando al setaccio tutti i rimborsi ottenuti dagli agricoltori italiani negli ultimi anni. I risultati di questa maxi inchiesta sono ancora coperti dal segreto, ma secondo discrezioni ci sarebbero milioni di euro pagati a chi non ha nemmeno un fazzoletto di terra coltivato, a prestanome di clan mafiosi, a chi ha un garage e lo spaccia per fattoria. Ora, io non so cosa possa coltivare uno nel garage, anzi purtroppo lo sappiamo, ma a parte quello che è pure illegale, ma ci rendiamo conto, adesso mando il traffico perché non, più, non ce la faccio più, poi la borsa, Monte dei Paschi e anche l'Europa. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dicevamo del caso di borsa oggi, e forse non solo di borsa, il Monte dei Paschi di Siena più 19,24%, quasi il 20% di rialzo in una sola seduta, col titolo che va a 22 centesimi di euro per azione. Questo nel giorno in cui vi sono state altre perquisizioni in varie città italiane da parte della Guardia di Finanza per la vicenda della banda del 5%, della truffa milionaria ai danni dell'istituto, però vorremmo capire come mai un titolo che si chiama Monte dei Paschi strappa, come si dice in gergo, con un più quasi 20%. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Abbiamo visto indiscrezioni secondo cui l'Unione Europea, nel dare via libera ai Monti Bond per salvare la banca, avrebbe chiesto la disponibilità a nuovi tagli dei costi, però insomma che questo giustifichi un 20%, boh, mi sembra strano. No, infatti. Ho l'ipotesi che invece a vendere sia stata la Fondazione Monte dei Paschi, che se non ricordo male ha in carico queste azioni a 24 centesimi di euro. Faccio notare che il titolo era sceso anche a 18 centesimi, 17. Probabilmente anche meno. Anche meno. Oggi sono a 22, forse per limitare il danno. Ecco, delle due quale ti convince di più? Sicuramente la seconda, e non solo, ci sono voci appunto che si rincorrono su movimenti del flottante in mano, che passerebbe di mano da azionisti a hedge fund, non meglio precisati per il momento. Queste sono le voci che si stanno rincorrendo proprio negli ambienti senesi. Ancora la deputazione credo sia in corso, stia per terminare. La deputazione è, diciamo, è il corrispettivo del consiglio di amministrazione della società, e la deputazione è l'organo di vertice della fondazione. Oggi, lo ricordo, l'argomento principale era a possibile azione di responsabilità, cioè la causa degli attuali vertici guidati da Antonella Manzi nei confronti della passata gestione guidata da Gabriello Mancini per quanto riguarda gli aumenti di capitale che poi hanno aperto le indagini sull'acquisto di Antonveneta nel 2008 e poi quello del 2011. Quindi la notizia attesa oggi era non tanto la cessione, sarebbe una sorpresa, ecco, capire che proprio oggi è stata ceduta una quota, ma piuttosto questa azione di responsabilità che secondo il parere legale ammonterebbe a 750 milioni. Sembra però appunto nell'ultima ora che potrebbe essere stata presa una decisione proprio sulla cessione della quota, che ricordo la fondazione è intorno al 30% del Monte dei Paschi, per necessità di ripatrimonializzare bisogno di vendere tutto o quasi. Antonella Manzi aveva dichiarato più volte di voler tenere una piccola partecipazione dentro la banca senese, non oltre probabilmente il 5%. Ecco, quindi potremo sapere stasera che poi in effetti questa quantità di azioni poi effettivamente è passata di mano. Sì, al di là di un ascoltatore che con un po' di fantasia e tanta dietrologia dice potrebbe essere Nomura che fa un'opa sul Monte dei Paschi così evita di pagare i danni della causa in corso. Adesso è tutto. Beh, insomma, un po' fantasiosa. Insomma, per carità, però insomma, detto questo, invece quello che sappiamo per certo è che il braccio di ferro che ha contrapposto a suo tempo la fondazione con i vertici, quindi con Profumo e Viola, sì, ha poi ottenuto la fondazione di avere più tempo per vendere le sue quote, non voleva svendere, non sì, voleva. Certo. Ecco, chiedo se però vendere un hedge fund sia così diverso che vendere un altro fondo, ma queste sono valutazioni che non pertengono a me. Sappiamo bene cos'è, è un fondo ad alta redditività e anche ad alto rischio. L'hedge fund apre sempre un po' un mondo misterioso nell'immaginario finanziario, però ormai gli hedge fund si stanno muovendo su molti titoli, quindi potrebbe essere possibile. Bisogna capire di quale quota si tratta, ecco, perché effettivamente il passaggio di una grossa quantità. Ma il flottante, quello che è passato di mano, lo si sa? No, ancora no, diciamo. Abbiamo un'idea dell'11%. L'11% riguarda, del titolo? Credo di sì, l'11% delle azioni dovrebbero essere passate di mano, queste erano le indiscrezioni, però è tutto da verificare poi a breve, perché di quali poi si tratta effettivamente non lo sappiamo. Possiamo però ricordare, Sara, che le scadenze che la Manzi, la Presidente della Fondazione, ha promesso verranno rispettate, maggio, no? Maggio vuol dire, sì, che si chiude, sì, tutto però. Cioè, dovrebbe essere venduto un quantitativo importante delle quote in mano attualmente alla fondazione, in modo da evitare il fallimento della fondazione stessa. Questa era l'intenzione di Antonella Manzi, che appunto aveva aperto poi un braccio di ferro con i vertici della banca, che preferivano invece cedere tutto subito a gennaio con un consorzio di garanzia, un pool di banche già pronto a mettere sul mercato tutto quanto il pacchetto della fondazione. Ecco, la questione della causa contro gli ex vertici non è un fatto scollegato a questa operazione, perché l'azione che potrebbe intraprendere la fondazione nei confronti dei passati vertici in realtà si estenderebbe anche a un pool di banche che aveva fatto da consulenza, che aveva fatto la consulenza e l'advisor per i precedenti aumenti di capitali, e sono molte banche. Del 2008 si parla solo di JP Morgan, ma per l'aumento di capitale del 2011 parliamo di un pool di 12 banche, che evidentemente molte delle quali fanno parte anche del consorzio di garanzia che dovrebbe mettere sul mercato le azioni. Quindi diciamo, potrebbe essere con un po' di fantasia, ma non troppa, anche interpretata come una possibile forma di pressione che sulle banche, la fondazione, esatto, che magari adesso chiedono soldi comunque, nonostante ancora le azioni non siano state messe sul mercato. Un modo magari per chiedere, un aiuto fino a giugno, questa è un'ipotesi. Ho capito cosa sta dicendo, anche perché in ballo c'è da valutare se fare un'azione di responsabilità. Possiamo dire, per concludere, una cosa però, Sara, che se dovesse essere confermata la quota dell'11% del capitale del Monte dei Paschi, che oggi è passato di mano, cioè una quota enorme, sì, non potrebbe che essere stata la fondazione, questo potremmo dirlo? Beh, diciamo che è possibile, non mi sento di dirlo perché si tratta di una banca quotata e quindi tra no, poco dico faremo che le nostre... una quota così grande, vabbè, insomma, sì. È possibile, sì, faremo, diciamo, noi per i giornali di domani, ecco, diciamo così, stiamo facendo le nostre verifiche fra colleghi e stiamo verificando appunto questa notizia, però è questa la domanda che faremo, ecco, posso ridire questo. Anche a noi la domanda sorge spontanea e pare evidente che ci sia una... Vabbè, insomma, c'è un'ottima possibilità che sia la fondazione, aggiungo io e forza il concetto. Grazie a Sara Monaci. E noi restiamo in tema di banche, questa volta però del rapporto tra sempre un pool di banche con un gruppo che si chiama Sorgenia, di cui ci siamo già occupati, e un gruppo in mano controllato dalla CIR, della famiglia De Benedetti. Cosa fa Sorgenia? Produce elettricità, è un gruppo energetico, ha 4 impianti a ciclo combinato da 800 MW a Termoli, a Modugno, a Bertonico Turano, nell'Lodigiano e ad Aprilia. Sorgenia ha dentro anche un altro socio che è l'austriaca Verbund, va malissimo, entro marzo ha bisogno di 600 milioni di euro di capitale, ha debiti verso le banche per 1,8 miliardi e ha chiuso i primi 9 mesi con 434 milioni di euro di perdite. Lunedì si è tenuto un incontro con le banche per trattare, negoziare un liquidità da parte delle banche, ma le banche volevano anche un impegno maggiore della famiglia De Benedetti. Vediamo e cerchiamo di capire come è andata a finire. Fabio Pavesi, adesso le 24 ore, buonasera. Buonasera. Come è andata a finire? Bah, va a finire che si prende tempo, nel senso c'è un vero e proprio braccio di ferro. Giustamente, dal loro punto di vista, le banche dicono qui c'è troppo debito, va messo del capitale. Ovviamente il capitale lo si chiede all'imprenditore. A sua volta la famiglia De Benedetti dice sì, io posso mettere il capitale, però con la crisi in atto di Sorgenia, se metto del capitale rischio di perderlo, perché Sorgenia ci metterà molto tempo a smaltire questa crisi, cioè è una crisi passeggera. Qualcuno dice ma la CIR ha appena incassato i soldi della sentenza Fininvest, sono circa 300 milioni netti. Qual è il problema? È che c'è un'obbligazione in circolazione che in caso di evento di default, Sorgenia non ha pagato interessi per 60 milioni a gennaio, gli obbligazionisti possono richiedere il rimborso anticipato. Ebbene, questa obbligazione vale 290 milioni di euro. Quindi la famiglia sta tenendo duro perché magari a giorni o a settimana gli arriva la richiesta degli obbligazionisti e lì bisogna tirare fuori 300 milioni. Il problema di tutta questa vicenda è il forte squilibrio tra l'imprenditore che ha messo poco capitale e le banche che hanno messo troppo. Allora, dopo il traffico vorrei capire un'ultima cosa, perché le banche devono seguire una sana e prudente gestione dei risparmi degli italiani. Lo fanno praticamente con tutti, delle volte oltre che sana e prudente è anche sparagnina, è anche un po' da braccino corto, e qui mi fermo. E dicono sempre non possiamo prestare soldi in un momento di crisi se non abbiamo un margine di sicurezza che questi soldi vengano ridati, le sofferenze bancarie sono a record e via così. Allora vorrei capire se le banche che sono rimaste invischiate in Sorgenia questa valutazione non l'hanno potuta fare perché le cose sono precipitate, ci sono tantissime banche tra cui anche Intesa San Paolo, Banco Popolare, Unicredit, se non ricordo male, Monte dei Paschi, che ha 600 milioni di euro a disposizione, Intesa San Paolo che ne ha 350, più o meno, sono le più esposte. Ecco, vorrei capire se sono finite in questo cul-de-sac perché la situazione ha buttato a tempesta oppure no. Allora, Fabio Pavesi, fammelo dire con un termine poco economico-finanziario. Hanno avuto sfiga le banche perché hanno prestato soldi e poi la situazione industriale è andata male per Sorgenia. Questo è il rischio di dare credito oppure no? Ma direi proprio di no, non parlare di sfiga mi sembra veramente eccessivo, perché se si guardano i bilanci, bastava andare a ritroso nel tempo, e l'ho fatto io, l'hanno fatto anche i banchieri evidentemente, già nel 2009 il rapporto tra debito e capitale si squilibra, cioè nel senso che la società comincia ad avere una marginalità, cioè un flusso di cassa via via decrescente. 2009, 2010 va peggio, 2011 si riprende, 2012 il collasso. Quindi sono passati praticamente 5 anni. Ecco, in questi 5 anni le banche, anziché chiedere i rientri, hanno fatto l'esatto opposto, hanno aumentato di 500 milioni l'esposizione, da 1,3 miliardi a 1,8 miliardi. Tra l'altro una banca come il Monte dei Paschi, che su 1,8 miliardi ne mette 600, cioè un terzo, la dice lunga, come dire, sulla concentrazione del rischio. Sono 21 le banche coinvolte, una sola da 600 milioni su 1,8 miliardi. Insomma, in più questa banca è pure azionista, con l'1%. Uno si chiede perché una banca deve fare l'azionista o sta energetica. Ebbene, MPS quei soldi li ha già persi tutti, perché ha svalutato Sogini a bilancio da 40 milioni a soli 7, forse nel 2013 a zero. Insomma, c'è stata una certa, chiamiamola, imprudenza dei banchieri, uso anche un eufemismo. No, è strano, perché poi noi abbiamo decine, anzi centinaia di casi di imprenditori piccoli, di artigiani, che ogni volta che vanno in banca si vedono chiedere i rientri, se perdono a maggior ragione gli viene chiesto, anche correttamente delle volte, il rientro, certo. Gli viene bloccato il fido se è per pagare gli stipendi ai fornitori, non per piani industriali, cioè... Giustamente si va a analizzare i piani industriali e qui questo più perdeva più gli davi soldi. Sì, sì, è andata proprio così, cioè più la situazione si deteriorava, più le banche, anziché chiedere all'imprenditore un passo indietro, un rientro, hanno addirittura aumentato l'esposizione. Questo è un rischio che le banche sono prese, secondo me, consapevoli, e qui allora c'è un problema di errore di valutazione, chissà come mai. Per la famiglia De Benedetti e non per la famiglia Brambilla. Ecco, ci fu per Zaleschi, ci fu per Zunino, per Ligresti. Per Ligresti, ci fu anche per Don Verzè. Sì. Allora, ad alcuni infatti non va, e qua è d'obbligo, me lo chiedete a gran voce, non va come nel famoso incontro tra Benigni e il banchiere. Non possono mandarlo oggi, dai. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Direttore, lei non mi vuole dare 100 milioni, ma lei va a contare il suo nome, dottor Diotaiu. Lei si contraddice. No, non ho niente. Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni, perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni. Certo. Certo. Ah sì, eh? Certo. Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni. 200. Tenga, 300 milioni. Qui, tenga, non glieli voglio neanche, me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio, li metto in tasca. Non li voglio, li metto in tasca. Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, bene, di quello che c'ho bisogno. Direttore! Ma dove siamo arrivati? De Benedetti non chiedeva melanzane. Beda Romano, ci spostiamo dai casi delle banche italiane nei confronti di Sorgenia all'ultimo tema di questa giornata, ossia la Commissione Europea, le pagelle che oggi ha stilato e soprattutto quello che riguarda l'Italia. Urgenti le riforme di crescita e occupazione, e poi continua l'Unione Europea, attenzione, voi sarete monitorati come Italia in maniera particolare, perché ci sono ancora troppi squilibri nel vostro paese. Beh, dai, aiutaci a capire che cosa intende la Commissione per squilibri. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda. Sì, beh, prima di tutto è importante capire perché la Commissione europea sta facendo questi rapporti sugli squilibri macroeconomici nell'Unione europea. La ragione è che la crisi debitoria che è scoppiata negli ultimi anni è dovuta a bolle finanziarie che sono emerse improvvisamente in Spagna o in Irlanda, per esempio, e che hanno trascinato al ribasso nell'abisso i due paesi, ma poi trascinando con sé l'intera Unione monetaria. Quindi l'idea della Commissione è che bisogna cercare di capire se ci sono all'interno dei vari paesi delle surrettizie possibili bolle finanziarie. Allora, per quanto riguarda l'Italia, ci sono due aspetti che preoccupano la Commissione. Il primo aspetto è l'elevato debito pubblico, che è pari a oltre il 130% del PIL e che la Commissione considera pericoloso, rischioso, sia per l'Italia che per l'intera economia dell'Unione monetaria. Il secondo aspetto che preoccupa la Commissione è la bassa competitività del Paese. L'Italia cresce poco da almeno un decennio, esporta meno di quanto non esportasse, almeno in alcuni settori, ha una disoccupazione che è tendenzialmente elevata, strutturalmente elevata, e sono tutti aspetti che preoccupano la Commissione, perché l'Italia, bene o male, pesa per il 18% del prodotto interno lordo complessivo della zona euro, e se si infragilisse ancora di più potrebbe diventare un vero pericolo per l'intera Unione Monetaria. Su questo chiarissimo appunto il commissario europeo Olli Rehn. Begin with the good news. No imbalances have been identified in three countries. Voglio iniziare con una buona notizia. Non è stato individuato alcun squilibrio in tre paesi, Danimarca, Lussemburgo e Malta. Invece in 14 paesi sono stati riscontrati squilibri. E in tre di questi, Croazia, Italia e Slovenia, gli squilibri sono considerati eccessivi. In Italia il persistente ed elevato debito pubblico è una zavorra pesante sull'economia del Paese e rappresenta una seria preoccupazione anche per le possibili conseguenze sul resto dell'area euro. L'Italia deve mantenere un surplus primario elevato per molti anni, così come deve aumentare il tasso di crescita per invertire la situazione attuale. C'è il rischio che l'aggiustamento strutturale per il 2014 risulti insufficiente, data la necessità di ridurre il debito a un ritmo adeguato. Questa situazione è accompagnata da una perdita di competitività che ha la sua origine da inefficienze in molte aree dell'economia e della pubblica amministrazione, che durano da molti anni. La crisi ha anche indebolito l'iniziale ripresa del sistema bancario italiano e ha indebolito il suo ruolo di sostegno alla ripresa dell'economia, come si è visto dalle difficoltà delle imprese ad accedere al credito. Affrontare queste sfide richiede decisive e urgenti azioni politiche e un impegno serio per le riforme, per il bene degli italiani di oggi e delle generazioni future. Incoraggiamo il nuovo governo a prendere rapidamente misure per attuare riforme per rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro in Italia. Beh, quindi chiudiamo ringraziando Beda Romano. Da dove eravamo partiti? Renzi mercoledì annuncerà, ha detto che mercoledì arriva il primo pacchetto di riforme. Vedremo poi, in base anche alle coperture, quella che sarà la reazione dell'Unione Europea. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.